Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Buonasera a tutti. Ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà, qui ancora con Alvise per questa nuova puntata di Overbooking. Overbooking, programma partito ormai da qualche settimana, in cui si parla di libri. Di solito ve ne parlo io, quest'oggi fortunatamente ho qualcuno molto più competente di me e saluto Nando, che è venuto qui a farmi compagnia questa sera. Buonasera. Ciao Alvise, ciao a tutti. Allora, come il format che, a cui ormai vi siete abituati, è la presentazione in ogni puntata di un nuovo libro. Questa volta il libro ovviamente l'ha scelto il nostro ospite. Prima di passare al vivo della trasmissione, voglio ringraziare ancora una volta Lele, che mi aiuta in cabina di regia e che in questo momento fa un bellissimo sorriso, e Matteo, che mi aiuta nell'organizzazione del programma, più tutte le mie lettrici, e oggi forse ne avremo una o due di nuove. Allora, di che libro andiamo a parlare questa sera? Allora, questa sera vi ho portato in dono questo libro che si intitola L'Uomo Verticale, di Davide Longo, edito da Fandango. È un libro che è uscito nei primi mesi del 2010, mm-hmm. È stato accolto molto bene dalla critica, sono uscite delle ottime recensioni, ed è un libro che secondo me è particolarmente importante leggere adesso, quindi lo consigliamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È un tomo abbastanza anche impegnativo, perché è sulle 400 pagine, però è estremamente scorrevole. Davide Longo è uno scrittore giovane del 71, è della provincia di Torino, ha scritto altri due romanzi, Un mattino Irgalem è il suo romanzo d'esordio, il secondo romanzo invece era Il mangiatore di pietre, entrambi per Marcos y Marcos. Entrambi hanno avuto un buon successo di critica e di pubblico anche all'estero. Chi è Davide Longo, a parte questa presentazione che ce lo descrive come scrittore? Allora, Davide Longo fa un sacco di cose, oltre a scrivere romanzi, scrive anche per la radio, scrive anche per il teatro, è soprattutto anche insegnante di scrittura creativa alla scuola Holden di Baricco, insomma, dove insegnano anche altri scrittori molto importanti come Dario Voltolini, Elena Varvello ed altri, e quindi docente di scrittura e anche docente per le scuole medie, credo. È un libro, tornando a noi, che vi consiglio particolarmente, che vi ho portato in dono, scegliendolo anche fra altri che sono usciti in questo periodo, perché parla dell'Italia fondamentalmente. È un libro che parla dell'Italia senza mai menzionarla direttamente, ma parla della situazione italiana contemporanea. Fa diciamo, racconta l'Italia di oggi, raccontando in realtà un paese quasi in una situazione apocalittica. Racconta un po' quello che potrebbe essere la strada di Cormac McCarthy. È infatti un libro a cui è stato accostato molte volte. È stato accostato anche altri volumi, come per esempio Vergogna di Cozzia. Sì, che è lo scrittore sudafricano che appunto in questo suo Vergogna parte almeno da un punto di partenza che è abbastanza simile, ossia anche qui stiamo Sì. parlando di un Sì. docente universitario. Sì, il protagonista è questo nel libro di Davide Longo, è questo Leonardo, questo professore universitario di letteratura, che è anche ovviamente uno scrittore, che si ritira perché è coinvolto in uno scandalo sessuale, perché si accompagna ad una sua studentessa, una studentessa che poi lo ricatterà, lo porterà in tribunale montando uno scandalo per trovare un po' di fama personale. Lui decide di non difendersi addirittura. Non si difenderà e si ritira a vita privata, lascia tutto, ritorna, lascia la città che presumibilmente dovrebbe essere Torino. Dico presumibilmente perché nessuna delle città che vengono raccontate nel libro viene citata Viene citata. direttamente, ma c'è solamente una iniziale con un asterisco subito dopo. Si ritira quindi a vita privata, lascia tutto, non dà più tracce di sé. La moglie, ovviamente, dopo questo scandalo lo lascia, viene radiato dall'università e ritorna nel suo paese di montagna, nel paese dove era nato. Allora, prima di continuare e di andare a leggere qualche brano dell'Uomo Verticale, andrei con un breve intermezzo musicale. Andiamo a sentire una canzone, più che una canzone, beh, una composizione del Esbjørn Svensson Trio, che è un trio jazz svedese, e questa si chiama Good Morning, Susie Sow. eccoci ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà, sempre con Alvise, sempre con Overbooking. Vi ricordo velocemente i contatti per poter intervenire attivamente in trasmissione: potete telefonare allo 0421 560993 o mandarci un fax al 560994, sempre preceduto dallo 0421, o altrimenti potete mandarci una mail a radio@radiosandona.it. Quindi procediamo sempre in compagnia di Nando a discutere appunto questo libro intitolato L'uomo verticale, che è la nostra lettura di questa sera. Allora, Nando ha scelto per noi un paio di brani che secondo lui sono significativi di quest'opera. Sì, allora iniziamo subito leggendo l'incipit del libro. Il libro, come dicevamo prima, racconta di un paese ormai ridotto, insomma apocalittico, ridotto quasi a uno stato primitivo, insomma, dove le persone si combattono, sono nemici, sono tornate a uno stato quasi animale e cercano di sopravvivere, cercano di scappare, e in cui si è introdotta proprio anche la paura di persone che arrivino dall'esterno. Le persone scompaiono, si uccidono, si arruolano per difendersi in una guardia nazionale, e l'inizio del libro ci dà subito il tono di quello che sta succedendo in questo paese. Ho capito, questa introduzione che mi hai fatto mi ricorda un po' un libro di Uhlenbeck, l'ultimo credo che abbia scritto, che si chiama La possibilità di un'isola. Ora non so se ci siano delle similitudini a riguardo, però è la prima cosa che mi è venuta in mente. Andiamo con l'incipit e ce lo legge la nostra lettrice di questa sera, che è Alice. Leonardo scostò la tendina e diede una lunga occhiata al cortile dove erano posteggiate 3 auto, una delle quali era la sua. Lo spiazzo era cinto da una rete metallica alta 3 metri, sulla cui sommità correva del filo spinato. La sera prima, accecato dalla luce che l'uomo di guardia gli aveva puntato in viso, aveva intuito la sagoma della torretta, ma ora notò che era stata costruita con perizia, assemblando vecchi pannelli pubblicitari, lamiere, pezzi di ringhiera, un box doccia e una scala antincendio. Dei 2 fari che la sormontavano, uno era puntato verso il cortile, l'altro rivolto al desolato niente, oltre la recinzione. Guardò i campi piatti coperti di basse sterpaglie, dove la strada si allontanava, curvando di tanto in tanto, malgrado nessun ostacolo la obbligasse a farlo. Il cielo, fin dove lo si poteva scorgere, era di un grigio monotono e senza squarci, in tutto simile a quello dei giorni passati. E ringraziamo Alice per questo primo brano tratto appunto dall'Uomo Verticale. Questo era l'incipit. Adesso passiamo ad un pezzo contenuto nel libro, e magari Nando ci dice qualche parola per presentarlo. Sì, ancora un altro piccolo brano, è un passo in cui il protagonista Leonardo è a Londra e sta assistendo a una pièce teatrale. Uh-huh. Tutto il libro, come dicevo prima, parla di questo futuro, probabilmente il paese in cui è ambientato, anzi sicuramente l'Italia, e lo descrive come un futuro senza speranze. Questo futuro senza speranze coinvolge tutti gli aspetti della realtà e della socialità. Lui, che è un professore universitario, è una persona inutile adesso, tutti gli rinfacciano che non sa neanche accendere un fuoco, che non sa difendersi, che non sa fare nulla. Ecco, allora nel passato Leonardo c'è un momento in cui appunto assiste a questa pièce teatrale, e ho scelto questo brano perché secondo me già lì Davide Longo ci fa intuire che già lì qualcosa sta cambiando nella cultura che esprime un tempo come il nostro tempo presente. Longo già vede che qualcosa sta cambiando, che stiamo andando verso una direzione ben precisa che poi sfocia verso questo nulla, questo momento di alto teatro. In realtà vedremo che una gaffe si trasforma in senso e significato, e Longo forse strizza l'occhio a questa critica già della cultura. Perfetto, e allora andiamo a sentire questo secondo pezzo, sempre dalla voce di Alice. Una volta Leonardo aveva assistito a uno spettacolo in un teatro londinese, dove la presenza di un giovane attore televisivo attirava ogni sera un pubblico adorante di ragazze che l'avrebbero voluto come fidanzato e di signore di mezza età che l'avrebbero desiderato come figlio o come amante. L'attore, sulle ali del successo, aveva scelto un testo non semplice per dimostrare di essere qualcosa di più di un belloccio del piccolo schermo e si era cimentato nello studio con chiara abnegazione. Tanto che nel terzo atto, quando la sua giacca doveva sparire dall'attaccapanni, ma per un errore di scena era rimasta al suo posto, cosa che tutto il pubblico poteva vedere, il giovane si era voltato verso l'attaccapanni e all'attrice, che faceva la parte della sua donna, incinta e cieca, aveva chiesto come da copione: «Dov'è la mia giacca? Chi ha preso la mia giacca?» Non toccando a una cieca a notare che la giacca era lì dove non doveva essere, l'attrice si era mangiata la battuta, sperando in un colpo di coda dell'attore che, al contrario, si era diretto a grandi falcate verso l'attaccapanni e, tastando intorno all'indumento per evitare di toccarlo, aveva detto: «Eppure io l'avevo messa proprio qui!» A quel punto Leonardo aveva sentito una signora dietro di lui sussurrare all'amica: «What a love! He's getting blind too!» E questo era il secondo pezzo che vi leggiamo stasera, tratto dall'Uomo Verticale. E prima di proseguire ulteriormente nella descrizione del libro, andrei con un secondo intermezzo musicale. Questo è un gruppo a cui sono personalmente legato, si tratta di Massive Attack, e questa è Live With Me. Give all that I- 102.2 Radio Sandonà, ben ritrovati su Overbooking. Ancora un ringraziamento da parte mia a Daniele che mi segue alle macchine. In questo momento è sempre più attento e guarda uno schermo del computer che non dà grandi risposte. Noi torniamo all'uomo verticale nel mentre. Allora, abbiamo detto il libro è ambientato, come potete aver capito dalle prime letture, in un prossimo futuro, un futuro che l'autore vede con non tanta non molto roseo, esattamente, diciamo. con poca speranza, in un certo senso. Sì, è un libro che non infonde molto, è un libro molto crudo in definitiva, è un libro veramente molto severo, e anche se lo stile narrativo e la sintassi sono molto piane, molto lisce, questa è una cosa che da qualcuno gli è stata anche rimproverata, il fatto che forse lo stile doveva essere più patetico, nel senso alto del termine, e quindi parlando di cose così violente, così pesanti, forse avrebbe dovuto così indugiare di più in certe emozioni. Longo invece si è mantenuto su uno stile molto scarno, molto elementare, ma nel senso buono, nel senso che non ha ceduto a patetismi, e questo forse è anche la vera forza del romanzo. Sarebbe stato troppo facile appunto cedere alle lacrime, ecco, o alla violenza anche verbale. E questo protagonista, questo Leonardo, che è l'uomo verticale del titolo tra l'altro si riferisce a un modo di dire spagnolo, per cui è l'ombra vertical, è proprio la persona tutta ad un pezzo, è la persona che non ha bisogno di domandare, di chiedere, e che non sembra essere effettivamente questo Leonardo quando si inizia a leggere il libro, perché è una persona estremamente mite, fragile, che piange, una persona, come diciamo prima, che quando viene coinvolta in questo scandalo non si difende, piuttosto si ritira in montagna. E invece proprio la sua forza in questo tempo così devastato, così crudo, che viene raccontato nel libro, sarà proprio quella di essere un mansueto, una persona tutto ad un pezzo, ma non nel senso così attivo del termine, ma una persona che rimane nella sua mansuetudine, diciamo così, lontana dalla cattiveria degli altri. Infatti sarà questa la sua forza, riuscirà a salvarsi grazie a questo. Volevo chiederti un particolare che mi ha colpito nella tua descrizione di prima. Mi dicevi che nessuna delle città italiane in cui il nostro Leonardo, toccate dal nostro Leonardo, in sostanza viene citato col suo nome per esteso. E a me questa ha fatto un po' pensare alla storia del signor K di Kafka. Sì, certo. E volevo chiederti, secondo te, questo escamotage perché? Ma allora, guarda, io da così insider, conoscendo anche marginalmente l'autore perché è un mio, insomma, una persona con cui ho a che fare, ti posso dire che c'è un motivo specifico. Lui aveva adottato inizialmente un'altra strategia, cioè quella di mettere sì l'iniziale del nome, però poi una serie di asterischi pari alle lettere che compongono la città in questione. Poi ha riflettuto sul fatto che questo avrebbe rallentato la lettura, creando quasi un giochino che in realtà indovina la città, esatto, che in realtà forse sarebbe stato anche azzeccato. Io mentre leggevo il libro dicevo, caspita, qua però se c'è questa città di T, fosse stata Torino piuttosto che un'altra, mi sarebbe piaciuto scoprirlo, però effettivamente forse avrebbe un po' rallentato la lettura. E comunque, a parte notate questa piccola cosa, il fatto è che secondo me proprio aiuta a pensare alla devastazione di questi posti, perché è un libro dove non c'è tempo e dove non c'è luogo, e fondamentalmente non si capisce neanche bene quando è ambientato, se è un futuro remoto, un futuro prossimo, qualcuno non so come abbia fatto, ha detto il 2015, non so, forse gli suonava bene così, però secondo me è proprio nel questo dubbio. Sì, cioè l'ha buttata un po' lì, secondo me, però è proprio per questo, perché per togliere il tempo e il luogo, per togliere lo spazio e il tempo. Allora andiamo a leggere un altro passo tratto dal libro di Davide Longo, L'uomo verticale, di cui parliamo stasera, e un passo che io vedo essere tratto da pagina 104, no, 105. Allora, questo è un passo, anche questo molto breve, in cui l'autore guarda la figlia e poi parla delle sue passioni musicali. E quindi andiamo a sentire questo brano tratto appunto dall'Uomo Verticale. Questa volta ce lo legge Carmen, due lettrici stasera, ascoltatori. Leonardo le guardò la schiena. Disegnava sotto il maglione panna un triangolo perfetto, spartito in due metà esatte dalla lunga coda. La nonna, la madre di Leonardo, aveva capelli neri e lucidi come i suoi e la stessa carnagione chiara. Non era una cosa insolita tra quelle colline e qualcuno diceva dipendesse dalle invasioni arabe. Lucia li teneva quasi sempre raccolti in una coda, fermata da un elastico rosso. Le uniche volte in cui Leonardo li vedeva sciolti era quando Lucia li lavava e sedeva accanto alla stufa per farli asciugare. Nell'attesa leggeva un romanzo scritto qualche anno prima da un musicista folk americano che era stato giocatore di baseball e instancabile viaggiatore. Qualcuno l'aveva definito l'erede di Bob Dylan, come il giovane Bob Dylan lo era stato di Woody Guthrie, e parecchie coincidenze dimostravano che non si trattava di un'idea campata per aria. Bob Dylan, da ragazzo, aveva fatto visita a Guthrie negli ultimi giorni in sanatorio, suonandogli le sue canzoni, e allo stesso modo il giovane Isaiah Jones si era recato più volte a casa di Bob nei mesi precedenti la sua scomparsa. Quegli incontri, molti dicevano, avessero sancito il passaggio di testimone del grande racconto popolare americano. La cosa, a suo tempo, aveva colpito Leonardo, che ne aveva scritto per un quotidiano. Nell'articolo aveva ammesso che adattarlo maggiormente nelle canzoni di Isaiah, come in quelle di Dylan e prima ancora di Guthrie, era ciò che non capiva, ma di cui intuiva la meraviglia. Come guardare un corpo nudo e perfetto attraverso un vetro smerigliato. Una visione carica di futuro. Quando sentiva le loro canzoni, capiva come dovevano essersi sentiti i primi lettori della Bibbia, con un regno da conquistare e il presagio di lunghe notti passate a forgiare le spade per farlo. Le canzoni di quei tre davano una speranza. Beh, io credo che il pezzo sia quanto mai azzeccato, che almeno a me ha fatto pensare a una delle tante soddisfazioni intrinseche del fare radio, in ogni caso. E beh, ovviamente se volete intervenire in trasmissione potete farlo allo 0421560993 o utilizzando la mail scrivendoci a radio@radiosandona.it. Andiamo avanti con la lettura dell'Uomo Verticale e quindi torniamo a Nando, che ci parla del prossimo pezzo da lui scelto. Sì, allora il prossimo brano è un brano un po' più lungo. Racconto brevemente dove siamo arrivati con la trama. Leonardo decide di abbandonare il piccolo paese di montagna nel quale si era autoesiliato, e con la figlia e il figliastro, dati in affidamento lui alla moglie, parte per raggiungere la Svizzera. Poi la Svizzera non riusciranno a raggiungerla, e allora decide di raggiungere la Francia. Sono a piedi, vengono presi da una banda di ragazzi che li schiavizza, che insomma li sottomette, li chiude in gabbia. Leonardo decide di liberarsi, di provare a scappare. Per scappare decide di affrontare una prova di coraggio, la prova del tagliadito, e questi ragazzi fanno ai nuovi arrivati nella compagnia di giro, perché alla fine questa è una carovana che si muove come una carovana del circo. E adesso ascoltiamo il tagliadito. come questa presentazione, come anche un po' cupezza, eccetera, a me fa pensare tanto, ora non è un libro, però a se qualcuno di voi ascoltatori ha mai visto 21 giorni dopo, questo tema, il tema del viaggio è ricorrente, però anche questa parte della prova nel momento in cui si viene inserito in un gruppo nuovo, quando ad esempio in 21 giorni dopo i protagonisti incontrano trovano il gruppo di soldati che si è barricato nella casa, fa pensare assolutamente a questo. Allora andiamo a leggere questo nuovo passo, questa volta si ritorna ad Alice. Quando giunse al davanzale, prese la piccola ascia che vi era stata adagiata e la infilò nei pantaloni dietro la schiena, quindi tornò verso il carro. Prima di arrivarci, però, abbandonò la traccia che i suoi passi avevano scavato nella neve e si diresse alla roulotte. La porta era accostata. L'impressione fu di entrare nell'ufficio dove un metodico impiegato svolgeva le sue mansioni, riposando qualche ora su una branda tra una pratica e l'altra. Nessuna solennità, solo uno spazio angusto, tappezzato di fotografie pornografiche e con un grande specchio sul soffitto a riflettere il verde sudicio del copriletto. Il pavimento era di gomma, il piano gas della cucina ingombro di pentole dove era stato cotto del riso. Da un gancio in ferro, sopra il letto, pendevano corde, catene e oggetti in latice, uno dei quali sembrava una mungitrice. Leonardo si avvicinò alla scrivania. Sul piano erano appoggiati alcuni schizzi a carboncino e una Bibbia foderata in tessuto. I disegni ritraevano Lucia nuda e legata. In un casellario sopra il tavolo ce n'erano altri. Leonardo immaginò che mostrassero altre ragazze e non li aprì. Nel secondo cassetto della scrivania trovò ciò che stava cercando. Prese il quaderno, lo infilò in quel che rimaneva della tasca posteriore dei pantaloni e uscì. Una volta nella gabbia, chiuse la porta e rimase ad aspettare. Due lampadine alimentate dal gruppo elettrogeno illuminavano debolmente il salone dove i corpi dei ragazzi si muovevano al ritmo di una musica inghiottita dai rumori del disgelo. Un manto nero e continuo aveva cancellato le montagne che pure si avvertivano sorvegliare ogni cosa. Quando vide Richard e Lucia comparire ai piedi delle scale, Leonardo tolse le mani di tasca, ma non si mosse. Non era tempo. Li seguì con lo sguardo mentre si aggiravano per la sala tra i ragazzi che avevano smesso di ballare. Lei indossava un vestito rosso che doveva essere appartenuto a una donna più grande e sicuramente madre, mentre lui portava una tunica beige e una sciarpa di lana gettata artisticamente sulle spalle. Quando vide Richard parlare con lo storpio e poi sedere alla scrivania, capì che era il momento e si alzò. Il ragazzo mandato a prelevarlo, vedendolo venire verso l'albergo, si bloccò sulla porta e per qualche istante rimase a fissarlo attonito, con l'aria di assistere al volo di un animale che non può volare. Era un ragazzo giovane, biondo, con la fronte alta e il mento preso in prestito dalla faccia di qualcun altro. Entrando, Leonardo trovò i ragazzi immobili, gli occhi incollati su di lui. La musica era spenta e l'unico suono, quello dei fuochi che ardevano dentro le stufe. L'aria sapeva di sudore, temporale e giovinezza. Leonardo raggiunse la scrivania dove Richard e Lucia sedevano. Nessuno fece nulla per fermarlo. Mentre sfilava tra i ragazzi, vide il dottore seduto accanto a una vecchia stufa. Poi Salomon in piedi sul bancone e la ragazza calva, accovacciata su un materasso tra due ragazzi. I capelli in quei mesi le erano ricresciuti in maniera confusa, lasciando le grandi chiazze pelate. Una volta al tavolo guardò Lucia, poi Richard, quindi lo storpio che se ne stava in piedi due passi dietro di loro. Capì che quell'uomo piccolo, malformato e crudele, attendeva quel momento fin dall'inizio. «Cosa vuoi fare, ballerino?» disse Richard. «Tagliarmi la testa?» Leonardo si accorse di aver sfilato l'ascia dai pantaloni e di stringerla nella destra. Fissò l'uomo che lo guardava con aria divertita, poi appoggiò la mano sinistra sul piano del tavolo e con un colpo netto si tagliò via il pollice. Sollevando lo sguardo dalla mano, trovò il volto pallido di Richard. L'uomo fissava il dito reciso sulla scrivania e il sangue che dalla ferita cominciava ad allargarsi sul piano. Il suo sorriso si era indurito. «Cosa vuoi dimostrare?» disse senza cercargli negli occhi. Leonardo, con un secondo colpo, si tranciò l'indice e il medio. Questa volta le due dita rotolarono oltre il bordo del piano, cadendo in grembo a Richard, che scattò all'indietro. La sua tunica era macchiata di piccole gocce vermiglie. Leonardo guardò gli occhi tiepidi di Lucia e le sorrise. Per un istante fu con lei nell'altrove che la figlia abitava, poi tornò a fissare Richard. Era pallido ed enfio come un fiore funebre, il labbro inferiore agitato da un vistoso tremore. Leonardo sollevò l'ascia una terza volta e si mozzò le dita che restavano. Una cadde dal tavolo, ma il migliono girò su se stesso fino a fermarsi rivolto verso l'alto. Leonardo allora tolse l'ascia che era penetrata nel legno e se la portò al fianco, continuando a stringerla nel pugno. I ragazzi erano sospesi. Poteva sentire i loro respiri tagliare lo spazio come grosse corde di violoncello che il minimo movimento avrebbe fatto risuonare. Guardò nel celeste degli occhi di Richard. Era sbiadito, mentre sulle guance gli erano comparse alcune macchie rosse. L'uomo appoggiò le mani sui braccioli e fece per alzarsi, ma i muscoli delle braccia cedettero. Leonardo attese pazientemente. Sentiva la mano in fiamme e un senso di leggerezza. «Credi di impressio», disse Richard, ma la frase gli si smarrì in un gorgoglio. Leonardo gli sorrise, sollevò l'ascia e la calò sul polso sinistro, mozzandosi tutta la mano. Questa volta il sangue schizzò dappertutto, sporcando lo storpio che non levò nemmeno una mano per pulirsi il viso. Il rumore dell'osso che si spezzava riverberò contro le pareti come quello di un albero che cade. Leonardo posò l'ascia sul tavolo e guardò la propria mano abbandonata nel sangue. Sentiva l'elettricità risalire lungo il braccio e formare attorno al corpo un cerchio dentro il quale si sentiva protetto quanto mai lo era stato. Avvertì che il padre e la madre erano con lui e anche quel fratello morto all'età di 3 mesi di cui la madre gli aveva parlato una volta soltanto. Un bambino che non era lui, ma che era a lui molto simile e che d'ora in avanti non si sarebbe più sentito solo. Poi si ricordò di Richard. Posò l'ascia sulla scrivania e, raccolta con la destra la mano mozzata, gliela gettò in grembo. L'uomo fece per alzarsi, ma i suoi occhi si rovesciarono all'indietro e svenne urtando la testa contro il bordo del tavolo. Leonardo ne osservò il corpo accartocciato sul pavimento. «Vieni», disse a Lucia. La ragazza prese la mano che l'attendeva e se ne alzò. E questo era l'ultimo brano estratto dall'Uomo Verticale di Davide Longo che andremo a sentire per questa sera. Prima di accomiatarci, volevo che Nando ci lasciasse con un pensiero finale su questo libro, ossia perché sarebbe bello leggerlo. Ma guarda, molto volentieri, io penso che sarebbe utile per tutti comprarlo e leggerlo per capire dove stiamo andando, per capire cosa sta succedendo a tutti probabilmente, e c'è una specie di anticipazione di futuro in questo libro, io ci vedo questo. Certo, è molto cupo, molto plumbeo, però c'è una capacità in Davide Longo, in quello che scrive, anche nei libri precedenti che comunque consiglio, di vedere il futuro, di anticipare le cose. Non a caso 2 giorni dopo che è uscito questo libro è scoppiata la rivolta di Rosarno, mi pare, sì. Degli extracomunitari. In questo libro si parla anche di quello, quindi c'è una capacità di anticipare, di leggere il futuro e di vedere la strada che stiamo percorrendo, veramente notevole da parte dell'autore, quindi lo consiglio a tutti, è una cosa molto rara da trovare nei narratori oggi. Io ringrazio Nando per questo intervento che secondo me è stato interessantissimo e rinnovo a tutti voi ascoltatori di Radio Sandonà sui 102.2 di acquistare quanto prima L'Uomo Verticale di Davide Longo e poi nel momento in cui l'avete acquistato anche di leggerlo. Ringrazio Nando per la gentile presenza. Guarda, ti ringrazio io, ringrazio anche Daniele e Matteo, è stato bello. Anche per noi, di nuovo un grazie a Lele alle macchine, a Matteo senza il quale probabilmente sarei a spasso nella grava dove tra l'altro non ci sono più gli alberi, e un grazie particolare ad Alice e Carmen che stasera ci hanno letto appunto l'uomo verticale. Vi lascio in compagnia della programmazione di Radio San Donà, non prima di avervi ricordato che potete scaricare questo programma potete scaricare il podcast di questo programma dalla nostra dal nostro blog in WordPress, e l'indirizzo è bloverbooking.wordpress.com. Cosa dire se non arrivederci alla prossima settimana, sempre con Alvise, sempre con Overbooking. Vi lascio con Nina Simone. Arrivederci alla prossima.